Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono. Come potete tranquillamente evincere dalla mia voce, il mio apparato vocale appunto non è al massimo in questi giorni, ma sono qui ugualmente per questa trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, che va in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, e naturalmente anche tramite l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. Potete scaricarla gratuitamente, che vi permetterà di ascoltare questa trasmissione, ma non solo questa trasmissione, tutte le trasmissioni di Radio Città Fujiko in tutto il mondo. Mi scuso sin d'ora se ogni tanto sparirò, ma appunto il naso che cola, la voce che è quello che è, la tosse che arriva, insomma è veramente una cosa, non dico tragica perché sarebbe veramente troppo, ma è una cosa impegnativa. Ma vedrò di arrivare alla fine di questa trasmissione, magari parlando poco e facendo ascoltare molta musica. Prima però vi devo ricordare che siamo nel pieno della campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko. Se volete aiutare la vostra piccola radiolina che ascoltate spero frequentemente, potete tranquillamente abbonarvi e più tardi magari vi dirò le modalità. Intanto andiamo ad iniziare questa trasmissione di oggi, 13 novembre 2024. E come al solito iniziamo con una novità che quest'oggi arriva dall'Irlanda, una band che non so pronunciare, nel senso che è scritto Lunasa, che è un termine che deriva dal celtico, e per cui non so come si pronunci, già non so come si pronunciano le cose in italiano, figurarsi in celtico. Se qualcuno di voi all'ascolto ha ascendenze celtiche, magari mi può chiamare per dirmi appunto la pronuncia esatta di questo nome. Il numero dovreste saperlo, comunque è 051 34 64 58. E detto di questo Lunasa, che appunto sono irlandesi e nascono nel 1996, sono formati da un ensemble molto variabile, ma sempre di musicisti tradizionali irlandesi di altissimo livello. Hanno fatto 3 album dal vivo e quello che vi propongo oggi, che si chiama Live in Kyoto, è il loro terzo e ultimo, e anche la loro ultima uscita discografica, che ha una storia un po' particolare, perché a mio avviso incredibilmente i Lunasa, li chiamerò così, hanno un grosso seguito in Giappone, tanto seguito che hanno i fans giapponesi hanno fatto un crowdfunding per mettere alla band di andare in tour in Giappone. Oltre al crowdfunding c'è stato anche un'iniziativa per registrare i concerti e produrre un album, che è quello che ho tra le mani, che fra l'altro ha un'edizione italiana anche, che è stata edita dalla Appaloosa Records, che è una casa discografica storica italiana di tantissimi anni fa, che è ancora attiva, e la cosa mi fa veramente molto piacere. Come dicevo, l'album si chiama Live in Tokyo, è singolo. ed è totalmente strumentale. Questa è una cosa, una particolarità di questa band, ma anche di altre band tradizionali irlandesi. È stato registrato, come dicevo, a Tokyo il 27, 28 e 29 novembre del 2023, quindi siamo già anche in questo caso in territorio Ricordi Today, un anno fa più o meno, e in un locale che si chiama Taku Taku. Ci andiamo ad ascoltare, giusto per far conoscenza con loro, ascoltiamoci questo brano che è dedicato a un personaggio a me sconosciuto che si chiama John McKinsley. Loro sono Lunasa. Thank you. Grande entusiasmo in Giappone per questi irlandesi Lunasa che hanno registrato a Kyoto il loro terzo album live, quello che vi propongo oggi come novità, si chiama appunto Live in Kyoto, registrato il 27, 28 e 29 novembre dello scorso anno. John McKinley, il brano che ci siamo ascoltati, non dico un classico perché tutti i brani che compongono questa raccolta sono o classici o brani autonomi dei Lunasa, ricalcati però sui classici, e la musica irlandese tradizionale più o meno fa sempre così. E visto che siamo in Giappone, ci rimaniamo in questa prima parte della trasmissione con una serie di registrazioni effettuate nella terra del sollevante, come si dovrebbe dire, ma al di fuori di Tokyo. Ci sono decine e decine e decine di registrazioni fatte a Tokyo, che è un po' la città che fagocita molto delle attività culturali giapponesi, ma ci sono anche le altre. E quali altre? Ci sono appunto Kyoto, ce la siamo appena... abbiamo appena passato per questa città e iniziamo questa piccola rassegna di città giapponese, anche se non ne parlerò perché non è la sede questa per dilungarci, perdere tempo fra virgolette, naturalmente, anche perché la mia voce è quella che è. Ed iniziamo appunto da una città che è purtroppo per lei famosissima, si chiama Hiroshima. E in questa città ci sono anche lì tantissime cose musicali. Ci andiamo ad ascoltare un personaggio, una ragazza che si chiama Esther Allison Frith, detta Esther Nova. Lei è nata alle Bermuda da parenti, il padre è inglese, la madre invece è proprio delle Bermuda, ma loro per lungo tempo nell'infanzia di Esther Nova hanno girato nei Caraibi e anche un po' nel mondo su una barca, una cosa un po' particolare. Fra l'altro lei ha espresso anche questi suoi viaggi giovanili con una serie di poesie che hanno avuto un grande successo, così come hanno avuto un grande successo gli album sia musicali che di poesie che ha pubblicato nel corso degli anni. Ha pubblicato anche 3 album live più un sacco di singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, il singolo ha come brano di punta Through and Bone, e a seguire 3 brani registrati in Giappone, uno a Nagoya, uno a Tokyo e quello che interessa a noi ad Hiroshima, che è una cover, un brano di Neil Young che certamente conoscerete, o almeno dovreste conoscere, si chiama Like a Hurricane, lei Esther Nova. There's calm in your eye, and I'm For that moment you touch my lips, that moment when time just slips away beneath us on our foggy trail. I talking about. I guess I never knew when she was living with them. People speak of love, don't know what they're thinking of. Wait around for the one who fits just like a glove. Speak in terms of a life and the living. Try to find the word for forgetting. You keep it up, you try so hard to keep the life from. The shape of a heart. In the shape of a heart. In the shape of a heart. In the shape of a heart. In the shape of a heart. Ha fatto diversi album live Jackson Browne, che è quello che ci siamo ascoltati con questa In the Shape of the Heart, e un paio di questi album è stato registrato in Giappone, tipo questo che si chiama The Route East Live in Japan, è stato registrato in giro Nagoya, Tokyo, Osaka e Hiroshima nel caso specifico di questo brano. Credo che non abbia bisogno di presentazioni. Jackson Browne è uno dei grandi della musica americana, è un attivista, è anche coinvolto politicamente, anche se poi è delle debacle tipo picchiare la moglie Daryl Lana o cose del genere. Comunque musicalmente non si discute. Questo brano è stato registrato in un posto incredibile che si chiama Bunka Kaukun HGB Hall a Hiroshima il 17 marzo del 2015, come ho detto, si chiama In the Shape of the Heart. Ma non è tutto così tranquillo, così calmo in Giappone. In particolare adesso ci muoviamo e andiamo in una città che si chiama Sendai, dove i Green Day hanno registrato diversi brani. Green Day, che è una band, che è un trio che arriva da Rodeo in California, è attivo dal 1987, ha fatto tantissimi, nella prima parte della carriera soprattutto, tantissimi singoli e extended plays con un sacco di brani dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Tune In Tokyo, perché appunto è registrato non a Tokyo ma in prospettiva di un concerto a Tokyo. Accordavano le chitarre in vari paesi, in varie città, anzi scusate, dei dintorni, tipo appunto Sendai, dove è registrato questo brano che si chiama Blood, Sex and Booze. Loro sono Green Day. We're the Green Day Band from California. We are the Green Day Band from Sendai. And this next song is called Blood, Sex and Booze. Yeah. Thank you. Riconoscibili dal primo istante, questi erano i Weather Report, naturalmente registrati in Giappone, un quadruplo CD veramente, veramente fantastico. Si chiama The Legendary Live Tapes 1978-1981, i nastri dal vivo leggendari 1978-1981. Rappresenta due tour che i Weather Report fecero in quegli anni, uno come quartetto e l'altro come quintetto. Naturalmente i Weather Report fondati da Joe Zevin, un tastierista eccelso, e Wayne Shorter, sassofonista altrettanto eccelso, fondati nel 1970 e poi sono sciolti 16 anni dopo nell'86, 1986. Questo 4 Plus CD è stato registrato, è stato pubblicato chiaramente postum nel 2015 ed è veramente fantastico. Il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato alla Festival Hall di Osaka il 23 giugno del 1978, si chiama Direction, e niente, ogni tanto mi viene un inciampo, perché nel corso degli anni della mia vita gli accenti sono cambiati tantissimo. Per dire, quando ero bimbo si diceva Hiroshima, adesso si dice Hiroshima. Sempre quando ero bimbo si diceva Osaka, adesso si dice Osaka. Per cui mi scuso se ogni tanto mi inciampo, perché devo decidere quale usare. Una band che vi propongo tutte le volte che posso, perché è in assoluto una delle mie preferite, se non la mia preferita, si chiamano Fish, quartetto che viene da Burlington nel Vermont. Sono attivi dal 1983, ma hanno subito diverse interruzioni per dar modo ai quattro componenti della band di fare cose soliste. È una del top in assoluto del movimento jam band americano ed è per me una band fantastica. Questo album, che si chiama Field of Heaven, singolare, è un triplo CD che è stato registrato al Fuji Rock Festival di Niigata in Giappone il 31 luglio del 1999, Niigata con due I, però è stato pubblicato solamente nel 2011 per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e dallo tsunami di quell'anno, quindi anche un'operazione benemerita. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wading in the Velvet Sea, loro sono i grandissimi Fish. I've been waiting in the velvet sea. I've been waiting in the velvet sea. I've been waiting in the velvet sea. Took a moment from my day and wrapped it up in things you say and mailed it off to your address. You'll get it pretty soon unless the packaging begins to break and all the points I tried to make are tossed with thoughts into a bin and time leaks out. My life leaks in. You won't find moments in a box, and someone else will set your clocks. I took a moment from my day and wrapped it up in things you say and mailed it off to you. Set your clock. E qui, come spesso accade con i Fish, parte il brano seguente, nel caso specifico Prince Caspian, che come atmosfera è molto simile a questa Wading in the Velvet Sea che ci siamo ascoltati da questo triplo CD che è stato pubblicato per raccogliere fondi per le popolazioni giapponesi colpite dal terremoto, dello tsunami del 2011. E il tutto però era stato registrato qualche anno prima al Fuji Rock Festival di Niigata, sempre in Giappone naturalmente, il 31 luglio del 1999. Con l'ultimo pezzo chiudiamo il giro. Siamo stati a Hiroshima, Osaka, Niigata, Sendai. Torniamo a Kyoto insieme ai Police. Credo proprio in questo caso che non ci sia bisogno di spendere altre parole, se non per dire che Around the World uscì in VHS, vi ricordate il VHS, nel 1982, poi è stato ripubblicato nel 2022 in versione DVD più CD, che è quello che ci andremo ad ascoltare. È stato in parte registrato, per quel che riguarda i primi sei pezzi, al Daigaku Shibu Koudu, una cosa del genere, di Kyoto, il 20 febbraio del 1980, quindi dopo la prima delle riunioni della band, e no, dopo nel momento della band, della prima parte della vita della band. Ci andiamo ad ascoltare un super classico, naturalmente, che spesso conclude i concerti dei Police. Si chiama Can't Stand Losing You. You don't ever wanna see me again. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, siamo al 13 novembre 2024 e è iniziata naturalmente la seconda parte con la novità che vi propongo quest'oggi. Una band irlandese si chiama Lunasa o Lunasa, che ha registrato questo terzo album live della propria discografia dal vivo, naturalmente se è live, a Kyoto, scusate. E infatti l'album si chiama Live in Kyoto. Taku Taku è il locale, esattamente il 27, 28 e 29 novembre del 2023. Il brano che ci siamo ascoltati è il brano che apre tutto l'album, è la marcia dei Tori, The Bulls March. A questo punto vi ricordo ancora una volta la campagna di abbonamenti della radio, che è in pieno essere. Naturalmente non vi starò a tediare, diciamo così, fra virgolette, su quelle che sono le modalità, non le modalità, cioè i perché abbonarsi a Radio Città Fujiko. È semplicissimo, c'è solo una cosa, perché praticamente Radio Città Fujiko è un unicum in tutto il panorama radiofonico, non dico nazionale, ma sicuramente emiliano e sicuramente bolognese. Quindi se volete, se ci tenete a questa radio e volete che vada avanti con tutto quello che ne consegue, e abbonatevi, please. E ne consegue, fra parentesi, che fra un po' allargheremo il nostro campo d'azione. Infatti fra un po' saremo anche nel 2025, nei primi mesi partirà il DAB, che è una cosa strana che si chiama Digital Audio Broadcasting, che farà sì che ci potrete ascoltare a livello regionale o quasi tutta l'Emilia Romagna. E questo naturalmente comporta un aggravio economico, per cui il vostro aiuto è sempre benvenuto, anzi veramente indispensabile. Potete farlo in diversi modi, attraverso un read bancario che potete fare continuativo, cioè ogni anno di questa stagione nell'ambito dell'abbonamento verrà reiterato l'abbonamento, oppure attraverso PayPal e con un bonifico semplice, se vi interessa. Vi dirò anche le coordinate, che come al solito c'è un IBAN che è impossibile da leggere, ma comunque la cosa migliore però sarebbe che voi veniste qui in radio per dare l'obolo di persona, ma anche per conoscerci, per vederci di persona e per parlare un po' di musica, dei problemi sociali, di quella che è la politica, di tutto quello che volete. Personalmente credo che questa sia la soluzione migliore. Venite a trovarci e abbonatevi, chiaramente. Nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva sempre Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Oggi abbiamo, come sempre, tantissime cose e come sempre il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Andiamo subito ad iniziare con una band che per diversi anni ha duellato, musicalmente parlando, con i Lanesque Nerd per la palma di miglior band sudista. Si chiamavano, o anzi si chiamano tuttora, Outlaws, perché dopo una pausa nel 2005 si sono riformati ed sono tuttora in giro, però con il solito con un membro originale solamente. Fra parentesi, nel corso della loro carriera ci sono stati diversi scambi, diversi passaggi da membri degli Outlaws, tipo Yugi Thomason, chitarrista, ha suonato poi per diversi anni nelle Nesque Nerd prima di morire, e Yugi Thomason, che era il leader praticamente di questa band, che era composta da 3 chitarre, basso e 2 batterie. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dal loro primo album live, si chiama Bringing Back Alive, che è stato registrato in diverse occasioni, in diverse epoche naturalmente. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare è Freeborn Man, è stato registrato al Florida Bicentennial Park di Miami il 13 novembre del 1977. Loro si chiamavano Outlaws. We're gonna do a song off our second record right now. I hope you might have heard of this one. It's called Freeborn Man. Freeborn Man. through every mile of railroad, every mile of railroad, every mile of railroad. Uomo nato libero, Freeborn Man, questi erano gli Outlaws, una grande band che prima ho detto al passato, ma come avevo già detto in precedenza, invece dopo alcuni anni di scioglimento nel 2005 si è riformata ed è attiva tuttora, anche se chiaramente non è più la stessa cosa. Bring It Back Alive, l'album che ci siamo ascoltati, il brano in particolare appunto Freeborn Man, registrato in Florida, a Miami, la loro città quasi di provenienza, diciamo, perché loro erano di Tampa, un po' più su, il 13 di novembre del 1977. Non credo abbiano bisogno di presentazioni, si chiamavano, questi posso dire purtroppo al passato, R.A.M., detti anche REM all'italiana. Sono stati attivi dal 1980 al 2011 facendo 4 album live più una serie infinita più o meno di singoli con brani dal vivo, tipo questo, il brano di punta Radio Song, e sono stati è stato pubblicato in diverse versioni, c'è il CD single normale, la collector edition che è quella che ci andiamo ad ascoltare, il 7 pollici, il 12 pollici, eccetera eccetera eccetera. Qui abbiamo appunto Radio Song più 3 canzoni che sono state registrate al Fox Theater di Atlanta il 13 novembre del 1989. Questa è la splendida Orange Crush. Be all that you can be in the army. I got my orange crush. uno dei brani di punta della produzione di R.E.M. Il brano si chiama Orange Crush, Fox Theater di Atlanta, Georgia, il 13 novembre del 1989, che completa questo anno, appunto, questi anni 80. Per gli anni 90 invece arrivano Psychedelic Force, altra grande band non valorizzata come dovrebbe, secondo me, fondata dai fratelli Butler, Richard dalla voce incredibile e il team, il bassista. Hanno fatto diversi hits che sono saliti ai primi posti delle classifiche, soprattutto britanniche. Should God Forget, Retrospective, il brano che l'album che ci andiamo ad ascoltare, come dice il nome, è un'antologia, una retrospettiva con alcuni brani inediti live, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, registrato al Metro di Chicago il 13 novembre del 1991. Il brano si chiama Get a Room. fucking rock and roll. Cosa è successo al mio rock and roll? Se lo chiedono i Black Rebel Motorcycle Club, grande band che arriva da San Francisco, attiva dal 1998. Ha fatto 4 album, questo è il primo, si chiama semplicemente Live, in realtà è stato pubblicato e pubblicizzato come DVD, infatti ce ne sono 2. Il CD è allegato, è un bonus, ma è quello che interessava a noi in questo caso. È stato registrato in diverse località, Glasgow, Dublino, Berlino, e questo in particolare il brano conclusivo dei loro concerti, anche quello che vedemmo a Bologna ormai diversi anni fa. Appunto Whatever Happened to My Rock and Roll è stato registrato al Barrowlands di Glasgow il 13 novembre del 2007. I'll speak to you. un po' più tranquilli, vengono dall'Australia, sono due fratelli esattamente, Josh che è il cantante e Sam che è il chitarrista, di cognome fanno Teskey, per cui la band si chiama Teskey Brothers. E Salasandir si dovrebbe dire, direbbero quelli che ne sanno pacchi. Vengono da Melbourne, l'Australia, sono attivi dal 2008. L'album che ci andiamo ad ascoltare è il primo dei due album live che hanno fatto, è stato registrato al Forum di Melbourne in Australia appunto il 13 novembre del 2019, quindi è abbastanza fresco, diciamo così. Il brano che ho scelto per voi si chiama Paint My Heart, loro sono Teskey Brothers. Don't let it stay. I know I drive. I fratelli Teschi, detti anche Teschi Brothers, il brano si chiama Pint My Heart e fa parte del Live at the Forum registrato a Melbourne in Australia il 13 novembre del 2019. Rimane il tempo per ascoltarci qualcosa dalla novità che vi propongo oggi, ma che vi ho proposto oramai perché possiamo passare al passato per questa trasmissione. Però prima vi voglio ricordare un paio di cose. Innanzitutto la campagna abbonamenti ancora una volta per sostenerci e per continuare ad ascoltare una radio che è veramente unica nel panorama radiofonico forse nazionale. Comunque ci sono varie modalità, ma come vi dicevo la cosa più bella sarebbe che voi veniste direttamente qua in via Zanardi a conoscerci, anche a vederci di persona. Vi ricordo invece che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e l'apposita app che potete scaricare dal sito. E fra qualche mese, come vi dicevo in precedenza, anche DAB, poi vedremo le modalità d'uso. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Lunasa, la novità che vi propongo quest'oggi dall'Irlanda. Hanno registrato questo live in Kyoto il 27, 28 e 29 novembre nella città giapponese, naturalmente. Il brano si chiama Baal Laundig, più o meno, anche il celtico non è la mia specialità. Grazie di nuovo per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio.